lo sullo di minu lascia collasse padano vuole se sta spinata si vuota revita oltre scelti mulle e lo sto sopra i ure se la ora cosa io di su mannello se vuota mulla se padano noi le vei vei mulla se padano noi le vei vei mulla se padano noi le vei vei mulla se padano noi le vei vei. Hey, hey, hey.